tutte radioattive, dalle bambine, ragazze e donne che dicono anarchicamente quello che sanno e che pensano. Naturalmente su Progetto Radio Scatola Nera. Un grande saluto a tutte e a tutti. Stasera parleremo del movimento delle Riot Girl. Questo movimento nasce nell'estate del 1991 quando migliaia di ragazze arrabbiate invasero Olympia presso Seattle al grido di Revolution Girl Style Now. Il manifesto del movimento predica l'aiuto reciproco per sopravvivere in una società in cui le donne sono penalizzate alla nascita, in un mondo in cui si sentono indifese e abbandonate. In particolare, a noi donne viene chiesto di parlare degli abusi che abbiamo subito, di confessare apertamente le nostre pene in maniera che noi stesse e le altre diventiamo più forti e necessitiamo di meno della protezione maschile. È da tenere conto che negli Stati Uniti ogni giorno vengono violentate circa 2000 donne, ed è qui che nasce questo movimento, di cui il 61% sono minorenni. Molte Riot infatti purtroppo hanno subito violenze e stupri. Questa era I Wanna Be With You delle Snaifer. Le Riot Girl sono innanzitutto ragazze di età media sui 20 anni. Non sono donne e non stanno difendendo la loro indipendenza, ma la loro dignità. Durante una marcia in favore dell'aborto hanno scandalizzato le femministe, che stavano recitando il loro rosario di slogan pedanti, per alcune ovviamente, mettendosi a strillare come delle invasate e facendo baccano con tutti gli oggetti a disposizione. È questo il loro modo di farsi sentire. Non sanno, forse ancora, nulla del mondo del lavoro, della famiglia, dei diritti e dell'eguaglianza. Sanno soltanto ciò che una ragazza di 20 anni sa. Abbastanza, comunque, da voler formare una girl culture. In fondo, riflettono uno scenario culturale in rapido cambiamento che ha rimesso in discussione tutti i dogmi del femminismo e del post-femminismo. L'ispirazione viene semmai dai metodi di ACT UP e di Queer Nation, movimenti di malati di AIDS e omosessuali, il cui slogan è «Non parlare, agire». Erano le Rudy Mentali, Skinhead, Skanking. Dicevamo non parlare troppo ma agire, e tutto questo si traduce nelle grandi autoproduzioni che queste grandiose ragazze riescono a fare. Per esempio di gruppi musicali di sole ragazze, soprattutto della scena punk hardcore, e infatti c'è una grande produzione di CD, cassette, di concerti eccetera, e anche di etichette discografiche. Per esempio, tutta la musica che viene proposta durante questa trasmissione viene da una raccolta che appunto si intitola Riot Girl, dove ci sono per esempio le Bikini Kill, le Giz, le Malayerba, l'Inerzia, Blondie, Snafer, Rudimentali, Anna e The Psychoman, Steels, Pink Panthers, Generators, eccetera eccetera. Nella presentazione fatta da Lori a questa raccolta dice: questa compilation nasce soprattutto per quei bei maschietti che si credono una razza superiore alla donna, a tutti quelli che andando a un concerto femminile cominciano a criticare e a discriminare. Aggiunge: credo che se ti piace la musica grezza e violenta puoi suonarla, elaborarla come preferisci e non importa chi tu sia, donna, uomo, nero o bianco, non ci sono pregiudizi. E soprattutto questo che ha spinto un certo numero di donne ad aderire al punk, dove nonostante una certa apparenza di rudezza si possono trovare dei valori poco condivisi nel sistema, tra questi l'uguaglianza. Altre grandi autoproduzioni sono quelle delle fanzine, che sono nate proprio anche col movimento, e ci sono diversi giornali che si oppongono a quelli che sono questi giornaletti stupidi per ragazze trattate fondamentalmente come stupide. Qualche esempio: all'inizio era nato questo Girl Germs, c'era My Super Secret, Action Teen, Jitsai, Sister Nobody, eccetera eccetera. C'erano un sacco di queste fanzine che erano nate all'epoca e che continuano ad andare avanti e a portare delle buone idee. Per la distribuzione di queste fanzine chiaramente fu necessario usare infrastrutture preesistenti, e quindi furono vitali le reti dei punk e degli homecore, ossia gli gruppi hardcore omosessuali. Ogni girlzine funziona come una specie di lavagna in cui le ragazze sono liberissime di scrivere ciò che loro ritengono di estrema importanza. È uno spazio riservato esclusivamente alle ragazze, per cui l'accesso al sesso maschile è assolutamente negato. E adesso le Geats, Beauty of the Rose. Autoproduzioni per essere protagoniste nella propria vita e non più solo semplici consumatrici o spettatrici. Le Riot autoproducono anche vestiti, spille e altre cose del genere, il tutto all'insegna della trasgressione. Infatti queste ragazze si vestono, parlano e si atteggiano a mo' di parodia delle brave ragazze borghesi, quindi di ciò che in fondo dovrebbero essere o potrebbero essere, ma che non sono. Così ad esempio possono indossare un gonnellino bianco da educanda con un paio di anfibi però duri e puri, oppure mettere un rossetto sexy con però un fermaglio alle narici e cose di questo genere. Spesso portano incise o dipinte sui vestiti, quando non tatuate ad esempio sull'addome, parole come incesto oppure puttanella. Invece che denunciare gli stereotipi negativi di maschilisti e ben pensanti, queste ragazze li esagerano e se ne vantano. Girl. Allora, erano le Bikini Kill con Rebel Girl. Un'autoproduzione secondo noi veramente geniale che propongono le Riot è quella degli assorbenti. Bisogna calcolare che, appunto, chiaramente ogni donna ha ogni mese media un ciclo e quindi calcoliamo che centinaia se ne vanno ogni anno centinaia di assorbenti che vengono usati e gettati perché appunto non si possono riutilizzare. E a nostro parere quindi è uno spreco allucinante anche per le Riot, per questo propongono l'autoproduzione di questi assorbenti. Infatti la mia nonna mi raccontava che non finiva più di lavare pezzettine di tutte le donne della famiglia, e con l'era dell'usa e getta ovviamente anche gli assorbenti sono diventati usa e getta. Un altro problema che hanno comunque gli assorbenti che troviamo normalmente nei negozi è quello che appunto creano tutta una serie di problemi, dalle allergie, ai pruriti, a tutta una serie di fastidi, ma che arrivano anche ad avere delle sostanze che poi creano delle problematiche di cancro. Infatti, qualche anno fa è uscito uno scandalo abbastanza impressionante, degli OB in particolare, la marca più usata, credo, di assorbenti interni, dove veniva usato il cloro per rendere l'ovatta bianca. Infatti sappiamo tutti, o penso che tutti sanno, che l'ovatta non è bianca, visto che è estratta dal cotone, in realtà è beige, comunque di un colore che sempre per l'era consumista usa e getta. Il grigio non è sicuramente il candore del bianco assorbente. E purtroppo il cloro negli assorbenti a lungo andare, se una donna usa solo assorbenti interni, in media userà comunque una volta al mese un oggetto estraneo al proprio corpo che rilascia sicuramente sostanze nocive ed è anche stato provato realmente cancerogene. Vi spieghiamo velocemente così, noi non, almeno io non sono riuscita a capire esattamente, devo ancora provare come si fanno questi assorbenti, ma vi leggo come viene autoprodotto un assorbente, come viene consigliato in questo opuscoletto dalle Riot. Allora, l'occorrente per l'esterno, il lino, che è meglio perché è anallergico, oppure il cotone. E per l'interno invece un pezzo di salvietta o un'altra stoffa. E poi appunto ago, filo e bottoni a clip per le alette sotto. Chiaramente questi sono assorbenti esterni. Allora, la parte interna bisogna tagliare e cucire i bordi per evitare sfilacciature e piegare all'interno i lati. Si ottiene quindi una specie di rombo e poi bisogna cucire le parti più scure insieme e ai lati mettere appunto uno di questi bottoni clip. Per la parte interna invece bisogna tagliare una stoffa all'incirca di queste misure. Larghezza 6-6,5 cm, lato superiore 17 cm, lato inferiore 4 cm, più o meno, Doppia, normalmente, se invece avete un flusso abbondante addirittura tripla. Bisogna poi piegare le alette e si ottiene così l'assorbente. Come metterli? Piegare sotto chiaramente le alette e chiudere il bottone. È sottointeso che non sono usa e getta, ma che bisogna lavarli, quindi tornando alla nonna. Un po', chiaramente, un po' un disastro se si è in giro per un po' di tempo, però comunque si possono mettere tutti in un sacchetto e poi lavarli quando si va a casa, se si è in giro per pochi giorni, sennò vabbè. Viene consigliato appunto come punto da usare per cucire questi assorbenti quello a candela, che non ho francamente la più pallida idea di come sia, però ve lo dico. Sì, la possibilità anche di comprare degli assorbenti se proprio appunto sei in viaggio, comunque risulta abbastanza complicata la questione dell'autoprodurseli, di comprarli appunto nelle erboristerie, nei negozi biologici, dove gli assorbenti sono comunque prodotti con dei materiali che sono in sintonia col nostro corpo, per esempio il lino o il cotone puro. Adesso, finito questo discorso, ascoltiamo Tormiton delle Slater Chemical. Libere e sicure soltanto senza i prodotti delle seguenti marche: Carefree e Always, che appartiene appunto alla Carefree, Tampax, OB e soprattutto Johnson & Johnson, appunto la casa madre di questi prodotti. Casa madre multinazionale Johnson & Johnson è la più grande distributrice mondiale di prodotti sanitari. Oltre che essere molto attiva nel settore farmaceutico, in Messico paga ai lavoratori a un minimo di sussistenza. Ha pagato tra l'altro 5 milioni di dollari negli Stati Uniti per aver indotto i dipendenti a distruggere prove relative ad un'indagine federale sulla promozione di un farmaco in casi non ammessi dalla FDA. Trasgredisce il codice dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul latte in polvere, reclamizzando bottiglie per l'allattamento artificiale. E adesso le Erase Errata con Marathon. Questa autonomia, ma anche appunto il viversi questa indipendenza a tutti i livelli, va a toccare anche sfere più intime, e qui arriviamo al discorso per esempio dell'autoerotismo, che va chiaramente a contrapporsi a quello che è il puritanesimo cattolico, che comunque appunto si associa anche a quello delle altre due religioni monoteiste, che propongono la protezione della famiglia in maniera assoluta anche laddove ci sono comunque varie forme di violenza. Infatti le Riot Girl provengono proprio da contesti di violenza, stupri subiti in famiglia. A questo proposito possiamo anche dire che parte dell'autoerotismo è anche la masturbazione. Al giorno d'oggi c'è ancora chi crede che la masturbazione, questo atto, sia una cosa da pervertiti. In realtà spesse volte fare da sole è meglio, come dicono bene le Riot Girl. Sia modo di riprendersi il nostro corpo, di avere un contatto più ravvicinato con le nostre parti intime, la nostra sessualità, individualità, contro, diciamo, la dottrina del pudore. La masturbazione femminile è utile e naturale soprattutto per conoscere meglio il proprio corpo. Basti pensare che fin da bambini si ha contatti con i propri genitali ed è del tutto normale. A questo proposito, tutte queste dicerie sulla cecità, supposta cecità o le supposte malformazioni che possono venire laddove la masturbazione è più o meno praticata, ridicolezze, speriamo, del passato, ma forse purtroppo ancora nel presente, ma veramente invitiamo tutti a farne buon uso alla faccia di chi non ci vuole bene. Consigliamo, per il tema dell'autoerotismo, i monologhi della vagina, uno spettacolo teatrale e libro tradotto anche in italiano. L'autrice è Eve Ensler, americana. E questo libro, spettacolo, è del tutto speciale. Nacque 5 anni fa sulla base di 200 interviste a donne di tutte le età, razze, professioni e classi sociali. Eve Ensler chiese loro di parlare della propria vagina e, sentendosi troppo coinvolta per affidare la pièce a un'attrice, la interpretò lei stessa in un teatrino off-off di Broadway a New York. Il successo fu immediato. I monologhi della vagina vinse l'Obby Award nel 98 e Eve decise di organizzare a New York una grande serata di beneficenza che battezzò V-Day, il giorno della vagina. Ricordo anche che durante quest'anno i monologhi della vagina sono uno spettacolo che è girato anche in Italia in diversi circuiti femministi e lesbiche. E adesso Disappointed, The Bochkas. Per quanto riguarda lo spettacolo e i monologhi della vagina, volevamo fare una precisazione. Si parla di serata di beneficenza. Questa beneficenza in realtà era tutta quanta devoluta per delle attività nel campo femminile, come i consultori e altri servizi per le donne. Servizi a cui probabilmente molto volentieri le Riot farebbero ricorso. Infatti sono ragazze di varie scene underground che lottano per un miglior posto in cui vivere, non a livello mondiale, anche se poi si creano momenti di incontro internazionale per interscambiare esperienze e così, ma nelle loro scene locali, che vedono ancora dominate dai maschi. Guardano in modo critico il mondo attorno a loro e non solo in modo femminista, ma anche ponendo l'attenzione sulle questioni, per esempio, dei diritti degli animali, i pregiudizi razziali, l'omofobia, i pregiudizi di classe e di età, eccetera. Il prossimo pezzo è Hot Topic di Le Tigre. In Europa il movimento delle Riot esiste ancora solo online. Vi do veloce un sito: www.geocities, scritto geocities.com/theladytourwebsite. Si scrive THE Lady, ma Lady Tour website, site, tutto scritto assieme. Ed è il sito appunto delle, in italiano, sulle Riot. Ora ci si vuole organizzare affinché esista in Europa appunto anche a livello reale. Speriamo bene, quindi un grande augurio alle compagne o alle giovani che vorranno seguire e portare avanti questo modo di essere donna. E vi do altri siti web, per esempio uno sulla vendita di autoproduzioni, che vabbè, giusto per andare a vedere, avere qualche idea: www.supervixendistro.tk. poi un altro sito sulle Riot Girls inglese: http://grrrlzines.net. e poi vi do due siti dove viene un po' spiegato cosa sono le Riot, e un altro proprio più puntualizzato sulla storia. Sono difficilissimi da dire. Allora, www.catodic.com/modules.php.idomanda name, scritto name, uguale news and file, uguale article and seed, uguale 1043. E l'altro, più storico appunto, www.forumfree.net/.idomanda.t, uguale 30245409. Bella, un buon mondo, un bel mondo da scoprire questo. Ciao a tutte. E concludiamo in bellezza con le Slits, Love and Romance. Slits, gruppo degli anni 70, punk, antesignane ai gruppi delle Riot Girl. Babylon lovers are Babylon lovers. Oh, oh, oh, sweet love and romance. Love's a feeling, and so is stealing. Do you hear me? I hear you. Ti sei ascoltato la radio dalla scatola nera, la radio che l'hai in la Correggia d'Udreix.